Visionare il cinema su Radio Onda Rossa tutti i giovedì dalle 14 alle 15, giovedì 9 giugno del 2016, 87.9 la modulazione di frequenza, ci ascoltate qui oppure in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta. Tutte le informazioni sulla scaletta di oggi e sulla trasmissione in generale le trovate sul sito della radio, sempre sull'home page, colonna centrale, trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Andiamo a cominciare con gli ospiti. Eccoci con Francesco Furiassi, regista del documentario Ispaco, Terre di Confine. Non so se la pronuncia sia giusta con quella J, Francesco. Ciao Federico. Intanto benvenuto, sì, comunque. Dovrebbe essere giusta. Ok. Come avrai immaginato, è l'acronimo delle nostre terre di confine. Esatto. Allora, intanto benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa, un documentario che ho avuto modo di vedere online, mi ha incuriosito molto questa storia, raccontiamola a chi ci ascolta, Francesco. Allora, innanzitutto grazie di questa opportunità, di questo spazio. Ispaggio è un documentario che, come appunto hai avuto l'opportunità di vedere, è un documentario che si può vedere senza aver visto le puntate pregresse di Apri gli occhi senza freni, che è un format che io insieme a alcuni amici più che collaboratori stiamo portando avanti. È un documentario dove, con la bicicletta, che è il nostro linguaggio che vorremmo un pochino portare agli altri, un linguaggio quindi di sport universalmente riconosciuto, sia in territori come il nostro e in territori appunto di confine, come, perché parliamo di Israele, di Palestina e di Giordania, dove tramite una piccola impresa sportiva abbiamo voluto misurare la temperatura, diciamo, geopolitica di questa regione, che proprio in questo momento sta vivendo una fase di particolare recrudescenza. Senti, allora parliamo anche del progetto più in generale, poi ci addentriamo nel documentario. Apri gli occhi senza freni, come nasce questa avventura? Apri gli occhi senza freni nasce dalla voglia mia e di Giacomo Bartolucci, che è un mio amico, mio caro amico. Da qualche anno, circa dal 2010, sì, abbiamo deciso di provare a produrre dei video, quindi non solo girare ma proprio produrre, e immaginandoci come frontman di queste situazioni, pur senza avere non essendo dei divulgatori scientifici, dei veri, diciamo, tra virgolette, professionisti. Non siamo né biologi, lui organizza eventi, io faccio l'osteopata. E ci siamo dovuti un pochino inventare un genere, un format, e appunto tramite la voglia di sport, la cultura di sport, che è un po' il nostro presente e soprattutto il nostro passato, visto che siamo tutti e due, diciamo, ex sportivi, abbiamo pensato di creare questi documentari che amo definire informali, dove noi non andiamo a insegnare niente, non proviamo a insegnare niente agli altri, ma andiamo ad ascoltare, ad imparare. Quindi tramite un mezzo, che può essere il correre, la bicicletta o qualsiasi altro, la canoa, andiamo in punta di piedi a entrare in contatto con delle realtà. E con Ispaggio è stato particolarmente, diciamo, forse importante, toccante, perché abbiamo toccato con mano un po' quelle che sono le piaghe di quella zona. Senti, la bicicletta è non solo un mezzo sportivo, anche un mezzo ecologico e a misura d'uomo, giusto? Assolutamente, infatti la nostra idea di base è sempre stata quella di raccontare delle storie tramite un mezzo green, che è appunto la bicicletta, e quindi tramite lo sport parlare di ambiente e di temi sociali. Ed è un mezzo appunto che è totalmente a impatto zero, ma anche un mezzo che non so, dai ragazzi incontrati per strada a Gerusalemme o in altri viaggi in Islanda, in Iran o dovunque siamo stati, è un mezzo veramente universale, che, non capendosi magari con le parole, col linguaggio, ma semplicemente passando la bicicletta al tuo vicino, si apriva un sorriso e si faceva breccia in un'altra cultura. È il nostro linguaggio. Senti, che situazione avete trovato? Che avventura è stata, insomma, passare in Palestina, Israele e Giordania? Allora, è stato forse il viaggio più intenso che abbiamo fatto, anche immagino, a livello proprio di emozioni. Sì. E i contrasti sono palesi, ma veramente di ogni genere, quindi dal passare dalla modernità, dal fatto di una città, una metropoli come Tel Aviv, dove che potremmo definire quasi una Miami del Mediterraneo, anche lì un purpurri di culture ma comunque molto ricca, a delle zone di confine tra Israele e Palestina come Gerico, dove veramente c'era la desolazione più totale, e anche delle piccole avventure come attraversare il ponte proprio che divide quindi la Gerico dalla Giordania. È stata un'avventura, perché queste persone veramente non riuscivano a capire perché tra italiani dovessero passare un ponte, quindi un confine, con delle biciclette. Cioè, per loro non era comprensibile il fatto che noi volessimo farlo deliberatamente in bici, e quindi non che pur potendo passare in macchina comodamente in autobus, noi volessimo farlo in questa maniera, perché probabilmente da loro ancora non c'è questa idea di turismo responsabile, ecosostenibile. E poi le vicende sicuramente più toccanti sono state quelle di Betlemme, dove abbiamo avuto la fortuna di intervistare la direttrice dell'unico ospedale, dell'unico presidio sanitario, sì, per bambini, pediatrico, sì, di tutta la Palestina, che è un ospedale magnifico, che è sorto negli anni 50 e via via si è sviluppato solo grazie alle donazioni di religiosi cattolici. E veramente cambia la vita ai bambini del posto, perché queste persone vivono un disagio che magari viene ha delle radici molto molto antiche, e in quei casi quando si è in Palestina non è facile rimanere obiettivi, non è facile mantenere un punto di vista neutro sulla questione israeliano-palestinese. E come tutti si finisce purtroppo, dico purtroppo perché probabilmente non è giusto, essere di parte per una fazione piuttosto che nell'altra. E questa è forse la cosa che mi ha stupito di più, andandoci in mezzo, sentendo, intervistando, parlando anche semplicemente con dei ragazzi israeliani, si aveva la percezione reale, tangibile, che loro avessero, una parola bruttissima, ragione, mentre parlando poi con arabi, con persone palestinesi, persone della Cisgiordania, si aveva esattamente la stessa percezione. Cioè, quando parlavi con uno capivi le sue ragioni, e viceversa la stessa cosa avveniva quando parlavi con persone che portavano la loro verità, che era opposta ma al contempo sempre reale, sempre vera. E questa è stata forse la cosa che mi ha toccato di più di questo lungo viaggio di circa 700 km in bicicletta a scatto fisso o comunque senza marce lungo tutta la Giordania, Israele e tutta la Giordania. Senti, che sarà di questo lavoro? È un lavoro in divenire, è un lavoro che adesso abbiamo scritto a buona parte di festival in giro per l'Italia, anche diciamo nel resto del mondo, per il titolo, e speriamo di vederlo in finale selezionato in qualche festival, e speriamo un domani di, insieme alle altre, chiamiamole puntate, di Apri gli occhi senza freni, riuscire a arrivare a una distribuzione anche televisiva, come dico, la fortuna di non farlo per mestiere, di non farlo di professione, ma solo come hobby riduttivo. Lavoro non lo è, scegliete voi qualcosa, scegli tu Federico qualcosa in mezzo, però la speranza è di riuscire a continuare a produrre, perché abbiamo una gran voglia di scoprire, di vedere e di portare la nostra testimonianza un po' in giro. Beh, mi sembra una buona idea quella di farlo in bicicletta e poi di superare tutte le frontiere. Siete stati in un luogo che è un po' simbolo moderno delle divisioni tra checkpoint e muri di separazione, insomma. Assolutamente. E quindi questo mi sembra un buon modo per appunto varcare i confini. Francesco, io ti ringrazio, e i contatti sono quelli di Apri gli occhi senza freni, per chi volesse saperne di più. Sì, soprattutto siamo attivi su Facebook, che è il modo più veloce e rapido per contattarci. Abbiamo anche un nostro canale YouTube che si chiama Apri gli Occhi Channel. Io e gli altri miei amici siamo a disposizione, e anzi ci farebbe piacere scambiare messaggi, conversazioni con i tuoi ascoltatori, Federico, e intanto ti ringrazio la tua trasmissione Onda Rossa. Un abbraccio e alla prossima. Ciao Francesco. Grazie, ciao. Francesco Furiassi, regista del documentario Ispagio, Terre di Confine. Chiara Abba, e qui apriamo tutto un varco in un mondo. Intanto benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa, Chiara. Grazie, buongiorno a tutti. Perché con te parliamo di una realtà che si chiama Torino Mad Pride e andrà in scena, diciamo così, l'11 giugno, e questo poi ci permetterà anche di parlare di un documentario che mi ha fatto scoprire questa realtà, ossia Mattia Cottimo. Cominciamo dal Torino Mad Pride, Chiara. Sì, allora il Torino Mad Pride è un movimento che è nato circa 5 anni fa, a partire dall'idea di alcuni cosiddetti matti, anche detti utenti psichiatrici, che si sono immaginati di poter realizzare un film in cui i matti scendevano in strada, si proclamavano matti, quindi smettevano in qualche modo di nascondersi, e poi finivano sulla cosiddetta nave dei folli, scegliendo autonomamente di lasciare questa società. E poi questo gruppetto di matti si è reso conto che forse non era così impossibile realizzare questa cosa, e poteva non essere un film, ma in qualche modo essere una realtà, peraltro esistente in tantissimi altri paesi. Per cui si è cominciato a ragionare nei termini di una manifestazione reale, di un corteo reale, come altre realtà realizzano, che scendesse in strada e permettesse di smettere di nascondersi. E all'interno di questa realtà, insomma, che ha già qualche anno sulle spalle, è stato realizzato questo documentario Mattia Cottimo, giusto? Sì, il documentario Mattia Cottimo nasce perché noi partecipiamo ad un bando regionale che utilizza fondi europei e dobbiamo proporre un progetto per riuscire ad avere dei fondi. Siccome ci sono molte persone che si occupano di documentazione video all'interno del gruppo delle persone del Torino Mad Pride, si propone in occasione di questo bando di realizzare un documentario, però la tematica del bando era in qualche modo l'inserimento nel mondo del lavoro di tutte quelle che vengono considerate categorie in qualche modo svantaggiate. Quindi dovevamo in qualche modo parlare di lavoro per i matti. Sì. Avevamo in realtà già al nostro interno l'idea del progetto Mattia Cottimo, stavamo già cercando di realizzarlo concretamente, quindi la possibilità per i matti di lavorare, cosa che non è semplice come si può invece pensare, perché spesso chi ha delle caratteristiche diverse, in qualche modo una diversità psichica, fatica a stare dentro alle leggi del mercato, certo, a cui molta gente invece è abituata, insomma, e riesce a stare dentro. Quindi qual è il problema? Che i matti non è che non siano capaci di lavorare, ma non riescono a lavorare alle regole del mercato. Quindi per esempio svolgere la stessa mansione tutti i giorni da quell'ora lì a quell'ora là. Quindi i matti hanno bisogno in realtà, per loro incapacità di costanza, non soltanto nel lavoro ma in tante altre cose, di un mercato del lavoro incostante, di poter svolgere lavori differenti, in orari differenti per esempio. E poi fondamentalmente a noi interessava poter garantire che al poi matto, scusa se apro la parentesi, sì, ma è quello a cui aspirano in molti e in molte, insomma. Certo. Sì, è un'esigenza direi molto sentita, esatto, che questo gruppo porta alla ribalta, ma ci si può unire in tanti, insomma, su, sì, questa esigenza, sì. Diciamo che la peculiarità rispetto a questo gruppo era la volontà di garantire al matto la possibilità di sofferenza, sì, vale a dire una persona che appunto ha una, è portatore di una diversità psichica, che noi non intendiamo come patologia, perché la patologia è un pezzo della persona folle, dopodiché tutto intorno alla patologia c'è un'intera persona con delle caratteristiche. E non solo questo, ma anche l'aspetto, come dire, che la malattia può essere manifesta in alcuni periodi e non manifesta in altri periodi, per esempio. Quindi non si è sempre pazienti psichiatrici, pur essendo magari sempre matti, che è un concetto un pochettino più ampio e ricco di sfaccettature, non soltanto quella negativa della patologia. Quindi in buona sostanza noi volevamo garantire alle persone che hanno questa diversità la possibilità di attraversare periodi di malattia, di sofferenza, di fragilità maggiore, senza per questo essere buttati fuori dal mondo del lavoro. Quindi l'idea di base era un po' quella di costituire delle squadre con delle capacità condivise. All'interno delle squadre ci sarebbe stata la possibilità di sostituirsi qualora qualcuno, in occasione di un certo lavoro, non fosse in quel momento in grado di portare a termine il lavoro, senza però per questo essere buttati fuori dal circuito, insomma. Quindi l'idea di base era questo, di consentire ai matti di essere matti e ciò nonostante stare anche dentro al mondo del lavoro. Da qui realizziamo poi il documentario Matti a Cottimo, strategie di sopravvivenza, con i fondi europei appunto di questo bando. E il documentario è in realtà un'occasione per documentare sia la capacità o incapacità dei matti di stare nel mondo del lavoro, ma anche di documentare un po' tante sfaccettature di questo gruppo, quindi del Torino Med Pride in senso più ampio, perché nel documentario si trovano scene tratte da precedenti Pride o da laboratori teatrali, piuttosto che l'occupazione di uno spazio dell'ASL che si è realizzata 2 anni fa. Quindi raccoglie un pochettino, in 50 minuti raccoglie la storia di questi ultimi 5 anni, direi. Senti, forse già nelle cose che mi hai detto la risposta alla mia domanda, che è, oltre al Torino Med Pride, come si muove durante l'anno questa realtà? E forse è proprio in quest'ambito lavorativo che mi stavi illustrando, giusto? Sicuramente l'ambito lavorativo è quello a cui in questo momento poniamo più attenzione, anche perché una peculiarità di questo gruppo è che in qualche modo raccoglie persone che hanno delle difficoltà o delle caratteristiche particolari, che sono un po' una fascia di persone che non trova sostegno altrove, ma forse nemmeno lo cerca, e per altrove intendo il classico servizio dell'ASL, quindi il centro di salute mentale, per esempio. Forse nemmeno lo cerchiamo in quel luogo, perché è un luogo che non ci soddisfa, il cui sostegno non è ciò che queste persone stanno cercando e non è ciò di cui hanno bisogno. E quindi in qualche modo c'è una forma di auto-organizzazione, di autosostegno nel quotidiano, che non troverebbe risposta in altro modo, cioè non esiste un servizio pubblico che darebbe questa risposta. Questo ci porta a cercare il più possibile di costruire rete, che è la cosa fondamentale per ogni essere umano affinché possa sopravvivere, quindi reti relazionali, nella convinzione che la relazione umana sia strumento per stare bene e per poter stare nel mondo. E quindi si realizzano, per esempio, riunioni quindicinali aperte a chiunque voglia partecipare, perché noi accettiamo anche persone senza diagnosi, non chiediamo la diagnosi all'ingresso, non ce ne frega niente della diagnosi. Dopodiché avevamo fino all'anno scorso e volevamo ripristinare un gruppo che si chiamava Assemblea Permanente dell'Ascolto, quindi dove c'era la possibilità di confrontarsi sempre in modalità paritaria. Realizziamo appunto vari lavori attraverso le varie squadre di Matti a Cottimo, realizziamo il Pride e realizziamo spesso anche altre feste di raccolta fondi, piuttosto che, avendo molti artisti all'interno di questo gruppo, spesso si organizzano anche momenti affinché questi artisti possano portare al pubblico la propria arte, e quindi tutto il gruppo può contribuire nella realizzazione di questi eventi. Bene, allora ricordiamo l'evento che sarà l'11 giugno, e poi ci lasci tutti i riferimenti social o meno in rete per saperne di più. Certo, allora noi ci troviamo sabato 11 alle ore 14 davanti alla stazione di Porta Nuova di Torino per appunto la realizzazione del corteo del Torino Met Pride, che poi si snoderà attraverso la città per arrivare al Parco del Valentino intorno direi alle 18. Insomma, il percorso non è lunghissimo, ma sicuramente ci saranno interruzioni sia perché ci sono dei momenti musicali, sia perché questa è un'occasione per poter dar voce a chi spesso non ha voce o non riesce a darsi voce. E quindi il microfono è a disposizione di chiunque, anche semplicemente passando per la strada e incontrandoci, possa aver desiderio di esprimere la propria opinione, dire qualche cosa. Quindi ci saranno letture più o meno preparate, ma anche molti interventi assolutamente spontanei. Arrivati al Parco del Valentino ci saranno ancora due momenti musicali attraverso un cerchio di percussioni per non professionisti e poi una piccola parte di concerto. Per avere tutte le informazioni trovate su Facebook l'evento digitando 11 giugno 2016, ci siamo solo noi quel giorno lì e quindi esce fuori l'evento. E su Facebook ci trovate come Torino Med Pride, che è la pagina ufficiale. Abbiamo poi anche due siti, ma trovate tutto facilmente sia cercando Torino Med Pride sito oppure Mattia Cottimo sito, così andate a vedervi anche il sito proprio dedicato a Mattia Cottimo. Benissimo, Chiara, è stato un piacere, chissà magari riusciremo a organizzare qualcosa per l'11 giugno con dei collegamenti radiofonici rispetto alla piazza del Torino Med Pride. Sì, volentieri. Benissimo. Volentieri, si può fare. Allora, grazie molto. Ci sentiamo anche per le prossime novità, un abbraccio. Grazie a tutti, arrivederci. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Chiara Abba del Torino Med Pride, appuntamento 11 giugno a Torino, sul documentario Matti a Cottimo. Ritroviamo Cristian Carmosino, regista del documentario A piedi nudi, la rivoluzione d'ottobre in Burkina Faso e la successiva transizione, che sarà proiettato questa sera al Cine Club de Tour. Cristian, ben ritrovato. Ben ritrovati a voi, saluti a tutti e a tutte. Allora, cominciamo da questo perché poi invece parleremo anche di un altro tuo lavoro che ha ottenuto un riconoscimento proprio questi giorni. Partiamo dal Burkina Faso, come nasce questo progetto, Cristian? Questo progetto nasce nell'ottobre del 2014, un anno e mezzo fa, e mi trovavo diciamo casualmente a realizzare un documentario sulla cooperazione italiana in Burkina Faso, e durante questo periodo di mia permanenza lì è scoppiata questa rivolta contro la dittatura che era al potere da 27 anni e in soli 3 giorni di manifestazioni impressionanti, diciamo, è stato cacciato letteralmente il presidente dittatore di Burkina Faso, Blaise Compaoré, ed si è instaurato un governo provvisorio e poi dopo un anno ci sono state le prime elezioni democratiche libere del paese della sua storia. Insomma, io mi trovavo lì, quindi ho filmato tutti gli accadimenti e poi sono tornato a più riprese nel 2015, lo scorso anno, in Burkina Faso per, come dire, raccogliere le testimonianze dei protagonisti di questa rivoluzione. Senti, che impressioni hai avuto dalle dinamiche che si sono poi sviluppate e la situazione che si è determinata? Scusa, non ho sentito bene. Che impressioni hai avuto rispetto alle dinamiche che si sono verificate e poi quello che è successo poi nel corso del tempo? Beh, intanto devo dire che durante i fatti non avevo nessuna percezione complessiva di quello che stava succedendo. Mi rendevo semplicemente conto che si trattava di qualcosa di straordinario, storico e di forte. Cioè, ci sono stati numerosi morti e io mi sono trovato in mezzo agli spari dei militari. E quando sono tornato in Europa, dopo aver girato appunto questi giorni di rivoluzione, ho trovato una produzione francese e questa produzione francese mi ha invitato a realizzare due prodotti. Uno è il prodotto che proiettiamo stasera al Detour, che è un documentario diciamo con uno stile di reportage che racconta proprio i fatti eccetera, e adesso poi sono in procinto di realizzare un altro, invece un altro tipo di film che utilizza parte di questo materiale, che però è un film, diciamo, più un documentario più cinematografico, che sono ancora in fase di ripresa e che inizierò a montare in autunno. E durante lo scorso anno io poi ho capito, cioè nei mesi successivi, facendo queste interviste di cui parlavo prima, ho capito quali erano le dinamiche in campo. Sostanzialmente, forse per la prima volta in Africa, in West Africa, un popolo è riuscito a rivoltarsi contro una dittatura senza che a questo seguisse un colpo di stato militare. Ed è una dinamica molto interessante, che tra l'altro mette in luce la presenza attiva di movimenti civili, che sono in questo caso guidati da leader musicisti, che sono in connessione con altri paesi. Quindi, diciamo, è finita una sorta di primavera subsahariana, che sta in qualche modo anche influenzando altri paesi come il Congo, come il Senegal, eccetera, e questi movimenti adesso sono in stretta relazione. Tra l'altro, proprio una settimana fa Amnesty International ha dato un premio, un riconoscimento ai due leader del movimento Blaise Citoyen, che appunto ha guidato la rivoluzione, per un riconoscimento che si chiama ambasciatore di coscienza, appunto per aver portato la popolazione a conoscere e a sentirsi responsabile a conoscere la possibilità di un cambiamento, che in questi paesi spesso è vista come remota, se non impossibile. Cristian, ci sarà questa sera il modo anche di parlarne con te, che sarai presente alla proiezione. E passiamo poi rapidamente invece all'altro lavoro, ma lo accenniamo perché sicuramente quando ci sarà una sua forma di distribuzione avremo modo di riparlarne insieme. Si tratta di un progetto che va avanti da un po' di tempo, giusto? Sì, si chiama, è un documentario che si intitola La lunga strada gialla, e abbiamo ripreso il viaggio di Federico e Mirko, che sono due giovani palermitano che hanno viaggiato, sono partiti da Portella della Ginezza e sono arrivati al Quirinale, quindi a Roma, in groppa a due muli. Quindi abbiamo seguito questo lungo viaggio che hanno fatto 4 anni fa, poi insomma ci abbiamo messo un po' di tempo, diciamo, per montarlo, e adesso l'abbiamo terminato, l'abbiamo presentato in anteprima al Cinema Ambiente la settimana scorsa, dove abbiamo anche, appunto, come dicevi, ricevuto il premio Ambiente e Società, e adesso abbiamo fatto una proiezione all'Apollo martedì scorso, e il film inizierà a circolare, speriamo, insomma, abbiamo fatto queste prime due proiezioni e speriamo che inizierà a circolare, ha avuto un'ottima accoglienza. È un documentario, diciamo, un road movie. Che racconta l'Italia del Sud che si ribella alla mafia e che propone vie diverse di turismo ecologico e ecosostenibile. Bene. Allora, Cristian, un abbraccio, un in bocca al lupo, e speriamo a presto. A presto, grazie a voi, e viva il lupo. Viva il lupo. Ciao Cristian. Ciao. Cristian Carmosino, regista del documentario A piedi nudi, la rivoluzione d'ottobre in Burkina Faso e la successiva transizione, al Cineclub Detour qui a Roma oggi, questa sera, giovedì 9 giugno. Elisa Mereghetti, regista del documentario Kevin, Will My People Find Peace. Ci sei, Elisa? Benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Eccomi, ci sono, grazie, eccomi qua. Allora, un po' che ti stavo cercando per questo lavoro, raccontiamolo a chi ci ascolta, Elisa. Allora, il documentario di cui vorremmo parlare oggi è Kevin, Will My People Find Peace, il ritratto di una giovane giornalista ugandese che abbiamo realizzato qualche tempo fa e che poi abbiamo montato e trasportato da alcuni festival recentemente. Questa giornalista ugandese l'abbiamo conosciuta qui in Italia, lei è venuta per il Festival del Giornalismo di Perugia ed è una persona molto interessante che ci ha introdotto a alcune delle tematiche che lei tratta nel suo lavoro, ad esempio il tema della guerra e della riconciliazione. Voi sapete che il Nord Uganda è stato afflitto da oltre 20 anni di guerra civile con le milizie di Joseph Kony che hanno imperversato tra la popolazione degli Acholi nella zona di Gulu, Lira eccetera. Lei è originaria di quella zona e ci ha portato a così capire come si è usciti da questo periodo e come si sta ricostruendo in qualche modo una coesione sociale o semplicemente come si riesce a convivere ancora con i terribili ricordi di questa guerra civile. Senti, ci sono le premesse per un superamento di questa situazione? Guarda, è stato molto interessante il lavoro proprio perché attraverso gli occhi di questa giornalista abbiamo potuto toccare con mano quali sono le difficoltà di un territorio, di queste comunità nel ricostruire una vita tranquilla, una vita di pace, quindi nel trovare diciamo le basi per la convivenza anche con quei ragazzi, quei giovani, quegli ex bambini soldato che sono stati rapiti e che sono stati portati nella foresta dove magari hanno vissuto per 10-20 anni commettendo delle atrocità. Quindi il problema adesso è un problema proprio di convivenza nella quotidianità con chi ha commesso degli atti di violenza, delle uccisioni, degli omicidi, dei massacri e poi è tornato magari a vivere nelle comunità da cui era stato rapito 15 anni prima. Sono situazioni particolari, molto, molto intense e molto forti, ecco, per cui noi abbiamo cercato di raccontarle attraverso gli occhi di Kevin e devo dire che insomma abbiamo avuto modo di parlare anche con delle persone che in prima persona, sulla propria pelle, hanno vissuto questi fatti. Insomma, sono stati rapiti, sono state ragazze, sono state schiave sessuali dei ribelli, hanno appunto partecipato ad azioni di guerriglia, sono fuggite magari dalla loro prigionia, hanno convissuto poi con questo momento del rientro, della non accettazione. Sono cose insomma, diciamo, molto, molto particolari che magari si conoscono poco perché in Italia la guerra che c'è stata appunto nel Nord Uganda, sì, alcuni ne sanno ovviamente, ma in generale se ne è parlato poco e quindi per noi è stato particolarmente intensa come cosa. Abbiamo lavorato sempre sui ritratti delle donne africane, cioè un tema che ci interessa moltissimo, abbiamo sempre cercato di valorizzare quello che è anche la capacità di affrontare situazioni difficili con coraggio, e con questo film noi volevamo anche in qualche modo proporre una visione un po' diversa da quella che è la visione stereotipata sia dell'Africa che delle donne africane, perché comunque Kevin rappresenta un modello di giovane donna africana particolarmente fuori dagli schemi e quindi in questo senso abbiamo cercato di seguire quello che ci diceva lei, ma anche un po' di dare noi un'immagine che ci interessava proprio per diciamo combinare un po' le carte, se vogliamo, da quello che è il ritratto stereotipato della donna africana con i pacchi sulla testa, eccetera, eccetera. Ecco, proprio a questo proposito, cosa caratterizza Kevin rispetto a questi standard invece ai quali siamo abituati? Sì, infatti, lei è per esempio una persona che ci ha sorpreso moltissimo. Sempre, proprio per il suo modo di fare, una persona che ha studiato, che come tante giovani donne dell'Uganda usa benissimo le nuove tecnologie, sa comunicare, sa fare fotografie, sa fare video, sa montare, cioè, sa ovviamente muoversi in tanti mondi diversi, come giornalista si sa adattare a situazioni diverse. Nel film abbiamo anche raccontato questa sua capacità quasi da Zelig, insomma, di adattarsi alle situazioni, di parlare in linguaggi diversi, che sia nella favela o che sia nella bidonville, poi nel shanty town, insomma, a seconda di dove si trovi, o che sia nel grande albergo a parlare con i ministri o con addirittura con il presidente dell'Uganda. Cioè, è veramente un personaggio, lei, molto particolare, ma come lei ce ne sono anche molte altre che per esempio anche con il loro blog sono riuscite a mettere all'attenzione di tutti. Oggi le tecnologie lo consentono, anche per chi vive in paesi dove l'informazione è del tutto, diciamo, controllata. Però per esempio c'è un'altra blogger ugandese che si chiama Rosbel Chagumire, che ha portato all'attenzione del pubblico, della rete, tematiche molto interessanti, come anche il discorso dell'omosessualità in Uganda, che, come alcuni di voi sapranno, è del tutto bandita, diciamo, mm-hmm. cioè proprio perseguitata, ecco. Mm-hmm. E il film ha vinto un premio importante al Festival Sguardi Altrove, che è un riconoscimento, premio speciale della stampa del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani. Questo ci ha fatto molto piacere, era un po' lo spunto da cui eravamo partiti per raccontare questa storia che continua a girare, che continuerà, spero, a girare per molto tempo, perché non è una storia datata, diciamo, o legata a un tema di attualità. Quello che è la storia dei ribelli della Lord's Resistance Army è ancora abbastanza aperta, anche se non nel nord Uganda, ma comunque il leader della Lord's Resistance Army è ancora a piede libero, Joseph Kony. Si suppone che sia nelle foreste della Repubblica Centrafricana, però chiaramente non è molto facile sapere dove si trova esattamente, quindi è tutto ancora aperto. Ed è una situazione su cui anche emblematica, perché quello che è stato fatto a queste ragazze rapite dalle scuole, dai loro ginnasi, licei, ne hanno rapite centinaia, questo avveniva già negli anni 90, avviene oggi ad esempio in Nigeria con i rapimenti di mm-hmm. Boko Haram. Sì. E quindi è una situazione attuale, attualissima, che si ripete, che sicuramente vale la pena mm-hmm. conoscere e informare su questo, sensibilizzare. So, quindi è un lavoro che ha, diciamo, diverse faccettature. Mm-hmm. Elisa, e per saperne di più rispetto anche a un calendario di proiezioni, ci dai dei riferimenti internet? Beh, sicuramente su Facebook, per esempio, noi abbiamo la nostra pagina Ethnos, ETHNOS, sì. Oppure per il nostro sito www.etnosfilm.tv. E lì chiaramente ci sono tutti gli aggiornamenti, i prossimi calendari e le prossime proiezioni. Io ti ringrazio, un abbraccio e a presto. Grazie a te, Federico, alla prossima. Ciao Elisa. A presto, ciao. Elisa Mereghetti, regista del documentario Kevin, Will My People Find Peace. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema, tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Andrea Romeo, direttore della 12ª edizione del Biography Film Festival a Bologna dal 10 al 20 giugno. Andrea, ben ritrovato. Felice di essere qui ancora una volta a Radio Onda Rossa. Oggi non per parlare di un singolo lavoro, ma del festival del quale ti occupi e del quale riferiamo ogni anno. Racconta un po' quali sono le sue caratteristiche a chi ci ascolta, Andrea. È un festival cinematografico di cinema documentario che però in realtà indulge alla fiction, sì. Quindi tantissimi film di finzione in questa 12ª edizione. Cominciamo dopodomani con il film Mama, tutto andrà bene di Penelope Cruz, che uscirà in sala poi la settimana successiva, e con la Palma d'Oro il meraviglioso I, Daniel Blake di Ken Loach, per continuare poi con molti autori che ci piacciono e di cui aspettavamo le nuove opere. Il Neruda di Pablo Larraín, presentato a Cannes e che ci verrà portato e raccontato da uno dei protagonisti, Gabriel García Bernal, che sarà con noi il 16 e 17 giugno. E poi il nuovo film di Jean-Marc Vallée, la versione integrale della Grande Bellezza, e appunto numerose altre fiction, dalla Vache, una commedia franco-algerina che uscirà per Teodora in autunno, fino al nuovo Harry ti presento Sally, Maggie's Plan, che uscirà invece alla fine di questo mese per Adler. Senti, allora, quante sono le opere presentate quest'anno? E poi se c'era una parola d'ordine di riferimento per questa edizione? I film quest'anno sono 90. Sono stato più bravo dell'anno scorso, che avevo superato i 110, quindi la selezione è strettissima. Abbiamo parlato delle fiction, ma ovviamente la nostra portata principale sono i documentari, e domani apriamo con il maestro Werner Herzog, che dà la parola d'ordine, che è Lo and Behold, come il titolo del suo film, e appunto che racconta la recente storia della nascita di internet e della civiltà digitale, in cui tutti noi viviamo consapevolmente o meno consapevolmente. E il film è forse, diciamo, il simbolo di questa edizione, che abbiamo chiamato The Brand New World, raccontare la civiltà digitale, e che attraverso il viaggio che Werner Herzog compie nella nostra contemporaneità ci porta probabilmente a sapere qualcosa di più anche della nostra quotidianità digitale. Senti, sono previsti anche gli ospiti, gli autori di diversi lavori, immagino. No, gli autori no. Non li vogliamo, impediamo agli autori di essere con noi. Sono già arrivati i giurati, Michał Marczak, un regista talentuosissimo che quest'anno farà parlare di sé. Il suo ultimo film è stato comprato dalla Sony e sarà una grande sorpresa, è un po' il nuovo Jules Jim della nostra generazione. Musica di Caribou, non vi dico altro. E poi Hussein Carimboy del Sundance, e dagli Stati Uniti, ma italianissimo, Roberto Mancinelli, che gestisce il portafoglio degli autori Sony, degli autori italiani in Sony America a New York. E quindi no, adesso da domani, con l'apertura del festival, cominceranno ad arrivare anche i protagonisti dei film. Oggi, in anticipata stampa, abbiamo visto The Black Sheep, che apre il concorso internazionale, che è il film di Antonio Martino su appunto storia character driven, diciamo, molto attaccata al protagonista. Martino racconta la necessità di Hausman, un giovane libico, di fare i conti, diciamo, con la sua educazione e col suo paese nel dopo Gheddafi, e la sua impossibilità di restare in Libia perché, tra le altre cose, appunto, è impossibilitato in termini religiosi, in termini, diciamo, di credo sociale, politico, religioso, e quindi è scappato dalla Libia. Il film sta facendo ovviamente molto molto scalpore, perché è una storia personale, ma che al contempo racconta anche il dramma che si sta consumando in quei paesi che prima erano sotto una dittatura e adesso sono finiti all'interno di una legge islamica che ovviamente opprime molti dei cittadini di questi stati, che speravano appunto magari in un futuro diverso, più libero, e si ritrovano con la Sharia. Allora, i riferimenti chiaramente si trovano anche in rete, sia sul sito internet che sui social. 12ª edizione del Biografi Film Festival a Bologna da domani 10 giugno fino al 20. Andrea, io ti ringrazio, un abbraccio e alla prossima. Ti ringrazio io, ma io vengo sempre in radio, ma devi venire tu al festival. Devo venire io al festival. Altrimenti diventa molto molto difficile continuare a raccontarlo. Ci terrei moltissimo che tu venissi a vedere qualcuno dei film di quest'anno. In particolare ti segnalo il film su Yo-Yo Ma e i musicisti della Via della Seta, che la settimana prossima appunto debutta qui in Italia al Biograph Film Festival. Bene, allora cerco di organizzarmi. Un abbraccio, Andrea. Buone visioni, a presto. Ciao. Andrea Romeo, direttore della 12ª edizione del Biograph Film Festival a Bologna dal 10 al 20 giugno. Eccoci con Giorgio Ginori, direttore della 22ª edizione dell'Isola del Cinema, Isola Tiberina, qui a Roma, dal 9 giugno al 4 settembre. Giorgio, ben ritrovato su queste frequenze. È una gioia ritornare così a incontrarvi, a parlare con voi. Buongiorno. Allora, una rassegna che ha ormai una sua storia, 22 edizioni, quasi tre mesi di programmazione, quindi una realtà importante. Giorgio, racconta cos'è l'Isola del Cinema. Sì, noi che siamo partiti 22 anni fa, era il 1995, centenario del cinema, con questa idea di rassegna. Adesso piano piano stiamo cercando di portare il nostro festival verso qualcosa che sia più un laboratorio, in cui il cinema è una sorta di pietra filosofale così della contemporaneità. Sì. E quindi, oltre a essere cinema in questi 90 giorni, anche perché abbiamo 90 giorni che sono tanti, insomma un festival dura più o meno 7-10 giorni, noi ne abbiamo 90, e quindi cerchiamo di portare sulla ribalta dell'Isola Tiberina, che è, come sapete, patrimonio artistico dell'umanità, tanti momenti anche di interazione fra il cinema e la letteratura, fra il cinema e la musica, il cinema e la poesia, il cinema e l'arte. Però, in attesa di parlare, se c'è tempo, di tutti questi momenti diversificati, volevo spiegare un po' il titolo di quest'anno. Sì. Allora, come voi sapete, l'UNESCO, noi abbiamo il patrocinio dell'UNESCO, oltre a Ministero Beni e Attività Culturali, Ministero degli Esteri, Roma Capitale e Regione Lazio. L'UNESCO ha dato a Roma il titolo di città creativa di cinema nel mondo. E naturalmente Hollywood sul Tevere, questo periodo dagli anni 50 agli anni 70, quando venivano le grandi produzioni, vi ricordate, Vacanze Romane, Cleopatra, Ben-Hur, e quando arrivavano queste grandi produzioni, naturalmente questo amore per Roma come città, per Roma anche come gente e anche come artigiani del cinema. Artigiani, mi riporto poi a qualcosa di cui, se vuoi, parleremo, cioè di questi fantastici professionisti del cinema italiano che quest'anno stanno con noi, cioè i mestieri e le professioni del cinema avranno nell'Isola Tiberina un importante punto di riferimento e di collaborazione. Allora, la cosa curiosa è che da 10 anni ormai le produzioni americane stanno ritornando a Roma, stanno ritornando a girare anche per i vantaggi degli sgravi fiscali. E poi l'altra cosa che mi piace ricordare, perché è ben augurale, è che quando negli anni 50-70 venivano le grandi produzioni americane, noi andavamo a Hollywood, andavamo a Los Angeles a vincere gli Oscar, cioè ben 15 Oscar i vari film di De Sica, di Fellini. Quindi mi piace molto pensare che Hollywood sul Tevere, che poi il sottotitolo è Dagli Studios al Cinema Indipendente, insomma mi piace pensare che Hollywood sul Tevere è ben augurale, perché celebra Roma, città creativa di cinema nel mondo per l'UNESCO, e in qualche modo diventa un lievito per il cinema anche italiano, che allora vinse 15 Oscar e adesso ha tutta una serie di grandi autori che noi amiamo, indipendenti, italiani, nuovo cinema italiano, e che vogliamo continuare appassionatamente a valorizzare. Benissimo. Senti, è impossibile adesso sottolineare e mettere in evidenza qualcuno dei titoli di questi tre mesi di programmazione. Volevo dirti chiederti però quali sono, se ci sono caratteristiche ben precise dell'edizione di quest'anno. Beh, allora, quest'anno volevo riepilogarti perché magari nelle sezioni si capisce meglio un sì, po' sì. Qual è la programmazione. C'è Chuck d'Italia, sono registi, attori, sceneggiatori, professionisti del settore e quelli diciamo un po' consacrati, un po' conosciuti. Sì. Poi c'è il Nuovo Cinema Italiano e tra l'altro nel Nuovo Cinema Italiano noi come ogni anno abbiamo selezionato, sappiamo che ce ne sono più di 5 di film belli, però noi ne abbiamo selezionato 5, se vuoi te li dico, che sono opera prima e seconda. Noi facciamo proprio un concorso che è il premio Groupama, sì. A solo di Laura Morante, L'attesa di Piero Messina, La macchinazione di Davide Grieco, Lo chiamavano Gig Robot di Gabriele Mainetti, Pecore in erba di Alberto Caviglia e Suburra di Stefano Solima. Questi, ripeto, con apprezzamento e stima anche per altri film che sono usciti, sono quelli che abbiamo scelto e che una giuria molto selezionata poi premierà come opera prima e seconda. Okay. Poi le altre sezioni, se vuoi te le dico al volo, sì. Invece a parte il cinema italiano c'è il cinema internazionale, Hollywood, capolavori proprio che sono, come dire, che stanno dentro l'immaginario di Hollywood, poi Europa, che sono 15 opere prese dai maggiori festival cinematografici d'Europa e distribuiti in Italia inediti nel nostro paese. E poi c'è una sezione che noi amiamo molto, che è questo sguardo al femminile, si chiama European Women Filmmaker, e abbiamo 5 pellicole quest'anno, tutte di registe donne francesi. Quella più importante che aprirà la rassegna si chiama Céline Sciamma, che ha fatto nel 2011 un bellissimo film che si chiama Tomboy, molto apprezzato, e poi gli altri film sono Diamante Nero, Appena Apro Gli Occhi, Mon Roi, A Testa Alta, Mustang e La Naissance des Pieuvres, che è La Nascita delle Piove, e sono tutti sguardi al femminile francesi che fanno parte di questa nostra attenzione all'Europa e in questo caso al cinema francese. Benissimo. Dopodiché per chiudere pronto? Sì, ci siamo. Dopodiché per chiudere ti volevo dire le altre due sezioni a cui sì. Teniamo molto. Una è Isola Mondo, da 22 anni noi avremo accolto quasi 200 paesi, anche quest'anno ne accogliamo 15, sono paesi come Australia, Brasile, Bulgaria, Francia, Giappone, Israele, Panama, Portogallo, Nicaragua, Spagna, e hanno la particolarità di essere come delle finestre su quei paesi, sono film inediti che arrivano da questi paesi e che ci permettono di conoscere un pochino meglio sia la cinematografia che anche un po' la cultura di quei paesi. E ultimo, Fuoco Surreale. Tu sai, tutti sanno ormai che il documentario sta diventando così un punto di vanto, vince, pensiamo solo a Fuoco a Mare di Rosi, che vince il Festival di Berlino, e allora noi che abbiamo questo amore antico per i documentari abbiamo creato proprio una sezione che si chiama Fuoco sul Reale, in cui ci sarà naturalmente Fuoco a Mare ma tanti altri documentari. Benissimo, allora io ti ringrazio Giorgio, un abbraccio e a risentirci presto. Sì, vi aspettiamo, noi stiamo lì da stasera. Siamo lì sull'isola Tiberina, speriamo di stare così insieme il più possibile perché vi stimiamo, e quindi grazie e vi aspettiamo sull'isola. Benissimo, un abbraccio Giorgio, ciao. Ciao, grazie a te, ciao. Giorgio Ginori, direttore della 22esima edizione dell'Isola del Cinema, l'Isola Tiberina qui a Roma, da stasera. Oggi 9 giugno fino al 4 settembre. Ferdinando Cito Filomarino, regista del film Antonia, che sarà qui a Roma al Cinema Farnese da domani fino al 12 giugno, una 3 giorni. Ferdinando, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao. Ciao. Tra l'altro al film abbiamo dedicato la copertina di questa settimana con una foto di scena, complimenti. Ferdinando, raccontiamo un po' a chi ci ascolta di cosa stiamo parlando. Allora, Antonia è un film ritratto della grande poetessa italiana Antonia Pozzi, che è una poetessa che è vissuta negli anni 30 e che non ha pubblicato nulla in vita, ma che poi purtroppo... le prime pubblicazioni sono avvenute postume e nel corso degli anni e dei decenni è stata riconosciuta per come una dei più importanti poeti che noi abbiamo in Italia e anche nel mondo, a partire da Montale, che fu il primo a fare questa considerazione. E il film, invece che semplicemente raccontare la sua vita, è una sorta di ritratto di un artista e della sua arte, che prova a convivere con lei negli ultimi 10 anni della sua vita per capire che cosa fa di un artista, perché decide di produrre queste poesie. Sì. Tra l'altro alla figura di Antonia abbiamo dedicato anche nella trasmissione del radioteatro uno spettacolo che è Per troppa vita che ho nel sangue, proprio dedicato alla figura di Antonia Pozzi. Ferdinando, un film molto attento ai spazi, ai tempi, con lunghi silenzi, spazi dilatati e un impianto anche per quanto riguarda soprattutto la recitazione, di un impianto teatrale, almeno per quello per come l'ho vissuto io. Un impianto teatrale, beh, allora, per quanto riguarda quello che dici degli spazi e del suono, è evidente che in base alla premessa che ho fatto poco fa, il punto è quello di provare a entrare nel mondo poetico di Antonia Pozzi, e che è un mondo minimalista in molti sensi. Sì. È un mondo di figure e di forme che si esprimono in modo alternativo come minimo, e quindi in questo senso è il contrario di ornare un film completamente pieno di musica. Sì. E invece di provare a assecondare lo sguardo poetico e di trovare una musica diversa in senso figurativo. Sì. Per questo. E poi non sono sicuro cosa intendi quando dici un apparato teatrale. Un impianto teatrale soprattutto per la recitazione. Mi sembravano attori di provenienza teatrale, almeno nello stile, insomma. Beh, il punto è che abbiamo deciso di trovare semplicemente le migliori persone possibili che potessero interpretare questi personaggi, tra l'altro realmente esistiti, e in questo senso la ricerca, che è partita da un lungo casting, ci ha portato a trovare attori che alcuni, anzi tutti i giovani, sono il loro primo film con Antonia. Sì. E provengono da teatro principalmente. Ci sono anche alcuni grandi attori di teatro come Filippo Dini e Federica Fracassi. Sì. E quindi diciamo a livello di curriculum e poi non lo so, a livello di resa per me comunque si tratta di argomenti molto diversi in un certo senso. Sì. Senti Ferdinando, ti chiedo intanto com'è partito il progetto, da quale idea di fondo? Ma allora, io sono sempre stato molto affascinato dagli artisti perché sono inevitabile e totale schiavi della loro grandissima sensibilità. Sì. E in questo loro modo di vivere inevitabilmente senza compromessi sono delle bellissime rappresentazioni dell'umano. Poi dipende da quale artista che cosa rappresenta dell'umano, e in questo senso Antonia Pozzi era un esempio perfetto di una giovane artista che aveva un rapporto molto intenso e complesso con la vita proprio, e che ha trovato come unico modo di rimanere in vita quello dell'arte. E quindi in questo senso mi sembrava, anche a partire dal fatto che ci sono delle coordinate semplicemente geografiche molto vicine a me, perché tutti i luoghi della sua vita sono luoghi che io conosco molto bene, mm-hmm. ed è un'epoca molto interessante per l'Italia, è un tipo di racconto sociale che è anche molto interessante per me, insomma tutte queste cose insieme, tra l'altro a partire dalla miniera d'oro che sono le poesie e le fotografie di Antonia, che per concepire un film è un materiale bellissimo, mi sembrava che fosse un'enorme occasione per fare un ritratto d'artista con il cinema. Oh, per la realizzazione, anche in fase di sceneggiatura, volevo chiederti a quali materiali hai attinto, e mi piace anche, tra l'altro, qui apro una parentesi, la scelta di alcune poesie che hai filmato proprio sulla carta stampata. Sì, allora, il materiale, come dicevo, era una miniera d'oro, perché appunto ci siamo con Carlo Salza, con cui abbiamo scritto il film, siamo partiti proprio dalle poesie, dal materiale poetico di Antonia, a concepire, a decidere quali fossero le nostre priorità nel raccontare Antonia Pozzi. Poi c'è questo bellissimo, diciamo quello che rimane, questa bellissima raccolta di lettere che Antonia ha scritto alle persone della sua vita. Ho sfogliato innumerevoli volte questi album che contengono più o meno 3.000 scatti di fotografie sia scattate da lei che, diciamo, della sua famiglia, e poi c'è anche una interessante parte di storia orale, perché ormai c'è stato un salto di 2 generazioni, però io ho parlato con delle persone che hanno parlato con delle persone, e ci sono dei pezzi di storie, di racconti che, al di là delle biografie che sono state scritte su Antonia, alcune storie, alcuni piccoli ricordi, alcune sfumature ancora si passano per parola, e quindi diciamo che le matrici di ricerca erano molteplici in questo senso. Senti, per quanto riguarda la poesia, diciamo, vista, io in generale questo tipo di poesia qui, di sicuro quella di Antonia Pozzi, reputo che la matrice dell'opera sia la parola su carta, così è il modo in cui lei l'ha concepita e resa, perciò reputo l'unico modo possibile di goderla quello di leggerla, e in questo senso abbiamo inserito delle poesie nel film in un modo che fosse organico, diciamo, al momento narrativo delle sequenze, e questa è la ragione per cui appunto hai visto delle poesie apparire. Sì. Ferdinando, allora si sta muovendo un po' a macchia di leopardo, che tipo di distribuzione avete scelto? Allora, noi il film è quasi autodistribuito, con l'aiuto della rete degli spettatori, che supporta appunto film di difficile distribuzione, come evidentemente è stato questo. Abbiamo iniziato con una bellissima uscita a Milano al Cinema Mexico, che ci ha tenuto per 1 mese e mezzo, che è stata una grandissima cosa, perché San Cassani del Mexico semplicemente crede nei film, e lui dice: io credo nel passaparola, vediamo dopo 2 settimane che succede, se la gente continua a venire lo teniamo, e così è stato. Dopodiché abbiamo iniziato a fare una sorta di tournée, come se fosse una rock band in giro per l'Italia che sta ancora andando avanti, e che domani anzi in realtà questa sera è stato aggiunto uno spettacolo alle 10:30, e che appunto sta continuando ovviamente in delle sale specializzate in questo tipo di cinema in giro per tutta l'Italia. Quindi lo accompagnerai passo passo? Sì. Sì, e contemporaneamente continua a fare la sua vita festivaliera in giro per il mondo. L'ultima tappa che abbiamo fatto era a Seattle negli Stati Uniti. E per conoscere il calendario di proiezioni, c'è un sito internet, una pagina Facebook di riferimento? C'è la pagina Facebook del film, e in più, se si segue la rete degli spettatori, sia su internet che su Facebook, anche lì sono costantemente aggiornate le nuove proiezioni. Semplicemente cercando Antonia? Sì, cercando Antonia Film su Facebook. Benissimo. O rete degli spettatori anche. Ferdinando, è stato un piacere, e ci risentiamo, spero presto. Lo spero anch'io. Un abbraccio, ciao. Ciao. Ferdinando Cito Filomarino, regista del film Antonia, che sarà qui a Roma al Cinema Farnese da domani al 12 giugno. Questa è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Per saperne di più sulla scaletta e sulla trasmissione potete consultare il sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page, colonna centrale, trasmissioni, Visionari. Sulla pagina Facebook c'è Visionari. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Ci ascoltate in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza e anche in streaming. Sempre sull'home page del sito della radio c'è Ascolta la diretta. Dal 1977 libera da padroni e pubblicità, la voce dei senza voce, la radio di chi se la sente. Potete contribuire a farla vivere. Uno dei modi è la sottoscrizione sul numero di conto corrente postale 6180 4001, da intestare a Radio Onda Rossa, Via De Volci 56 00185 Roma. E sul sito, sempre sull'home page, alla voce sostieni troverete le altre modalità telematiche per il finanziamento di questa emittente. Stiamo provando un ultimo collegamento con Antonio Manzini, regista del film Cristian e Palletta contro tutti, in uscita in sala oggi giovedì 9 giugno. Niente, non riusciamo a metterci in contatto con Antonio Manzini, per cui chiudiamo qua con Visionari di questa settimana. Ci sentiamo giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15.